Scala in tavola di Nicoletta Carbone. L'Italia canta e noi ci sediamo a tavola cantando, contagiati naturalmente dall'atmosfera sanremese. Allora oggi, alla tavola della bufala in tavola, ecco qua un menù musicale. Ci state? Scaldate le ugole, accordate gli strumenti e accomodatevi. E si accomodi anche Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore dell'Università di Milano, a cui ho chiesto di aiutarci a costruire un menù musicale che segua un po' lo stile del menù di un nostro pasto, un pasto di festa, un pasto al ristorante. L'idea è: se una canzone fosse, che so, un antipasto, che canzone sarebbe tra quelle presentate sul palco di Sanremo? E se invece dovesse funzionare da dessert, quali suoni, quali parole chiuderebbero il nostro menù del giorno? Intanto Alberto, ciao, grazie per essere con noi anche alla domenica. Ciao Nicoletta, buona domenica a tutti. E intanto provo a verificare con te se la mia è una buona intuizione. È un'intuizione validissima e tra l'altro ciascuno di noi nella propria giornata usa la musica proprio un po' come il menù del suo andare nella vita. La mattina probabilmente ci utilizziamo una musica piena di energia, poi magari nel pomeriggio, nel ritorno a casa, ci facciamo preparare, no? Proprio a quel momento del è finito tutto e comincia il nostro tempo con una musica ad hoc. E non so chi di voi è abituato ad ascoltare musica magari prima di addormentarsi, ecco, ma noi variamo proprio il nostro menù musicale in base alle caratteristiche della giornata in cui ci troviamo. Alberto, il menù non è solo una sequenza di ricette, naturalmente ha le sue regole, una sua logica, perché ogni portata ha un ruolo preciso. Direi che ogni portata anticipa e prepara quella successiva in un crescendo di sapore. Anche a tavola, insomma, come nella musica, ci vuole armonia. Proprio come le note di una canzone arrivano al cuore, i sapori seducono il palato. Sei d'accordo, Alberto? Sì, io sono proprio d'accordo col concetto di nutrimento, che se guardandolo dal punto di vista del cibo significa dare davvero gusto, sapore e materia al nostro corpo affinché stia in vita nel miglior modo possibile, ecco, credo che la stessa cosa valga anche per la nostra mente e il nostro cuore. Di che cosa ci nutriamo? Quali sono gli stimoli che ogni giorno noi mettiamo nel piatto della nostra vita per far sentire la nostra mente e il nostro cuore nutriti? E credo che in questo la musica abbia un ruolo fondamentale. Alberto, per darti una mano, io ho invitato Luca Palombo in arte Lello, che è in linea con noi. Ciao Lello. Buongiorno, buongiorno a tutti. Famosissimo, cofondatore di Chef in Camicia, grande amante della cucina tradizionale in tavola e della cucina casereccia. Lello, tu dovrai suggerire ad Alberto le caratteristiche che ciascuna portata ha, perché l'antipasto è stato pensato per fare l'antipasto. Così il primo deve assolvere a determinate funzioni, ma deve avere anche alcune peculiarità, alcune caratteristiche via via. Tra l'altro, tu sei qua in linea con noi, ma rappresenti, porti con te anche i tuoi due amici, Nicolò e Andrea, con cui hai fondato Chef in Camicia. Esattamente, assolutamente. Io porto alta la bandiera di Chef in Camicia oggi da voi e sicuramente diciamo che siamo caratterizzati da una qualità fondamentale, che ognuno ha un'idea di cucina differente, ecco. Quindi ognuno è molto ben identificato. Senti, tra l'altro lo voglio dire ad Alberto, perché insomma a leggere i vostri numeri, veramente insomma, cioè, i numeri fanno girare la testa. Nel 2019, Alberto, questi tre ragazzi, perché di ragazzi si parla, sono giovani, hanno realizzato 850 contenuti e hanno raggiunto 285 milioni di visualizzazioni. Quindi Alberto, ti affido in ottime mani. E hanno aperto un canale YouTube che già impazza e strapazza. Quindi Alberto, giocatela bene. E tra l'altro dovremmo aver, visto che loro si intendono di cucina, dovremmo chiedergli la ricetta, cioè come fanno ad avere così tanta popolarità, perché vorremmo scoprirlo anche noi il loro segreto. Allora Alberto, la ricetta gliela chiediamo in segreto, solo io e te. Intanto mettiamo subito al lavoro Lello. Lello, partiamo dall'antipasto. Sì. Che caratteristiche deve avere questo piatto che apre il menù? Allora, un antipasto secondo me la cosa fondamentale è che non deve essere abbondante, perché poi davanti a noi abbiamo comunque altre tre portate se vogliamo arrivare al dolce, quindi questa è la cosa fondamentale, ma deve essere anche la chiave che apre lo stomaco, quindi deve essere sicuramente interessante, deve avere dei sapori decisi, perché comunque deve accenderti il palato, questo secondo me è fondamentale. Allora, queste sono le indicazioni di Lello, chef in camicia. Alberto, le traducili in canzone. Ma guarda, tra quelle di Sanremo, secondo me, quella più vicina a questa definizione è quella di Tosca, Ho amato tutto, una canzone perfetta e composta al tempo stesso, cioè ha un senso della misura incredibile, su un palco dove abbiamo visto anche tanti effetti speciali, lei era voce, armonia, purezza, un testo davvero molto molto poetico, un'eleganza davvero di grandissimo gusto, di grande sapore, ma non ne rimanevi travolto, apriva proprio la porta alla voglia di ascoltare ancora molto altro, quindi un brano da antipasto secondo me perfetto. Tre passi e dentro la finestra il cielo si fa muto, resto lì a guardare, io so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Lello, adesso tocca a te, perché c'è un palleggio tra te e Alberto Pellai. E a questo punto, Tosca, la canzone di Tosca, Ho amato tutto, tra l'altro elegantissima. Quale ricetta ti suggerisce? Io, guarda, vado sul sicuro. Io per aprire il pasto al meglio con una preparazione semplice, ma allo stesso tempo come Tosca elegante, un crostino di pane caldo con un buon burro, salato e acciughe, non si sbaglia mai, secondo me. Mai. Poi è semplice da preparare. No, esatto. Fantastico, bravo. Semplicità, sapore, gusto, tradizione. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Massimo Gualerzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buona domenica, cardiologo, esperto in riabilitazione cardiometabolica, grande esperto di alimentazione, dottor Gualerzi. Dell'antipasto abbiamo descritto le caratteristiche, in realtà le ha descritte Lello. Abbiamo abbinato una canzone che è quella di Tosca, Ho amato tutto. La canzone di Tosca ha suggerito a Lello il crostino, burro salato e acciughe, ma quali caratteristiche deve avere un antipasto per chi è attento alla salute, al benessere e al gusto? Insomma, per chi ha sposato la filosofia della bufala in tavola, dottor Gualerzi? Sì, direi che la canzone di Tosca ci sta molto bene, perché come abbiamo appena sentito, prepara ad ascoltarne delle altre, quindi ci prepara il pasto, l'antipasto, ma nello stesso tempo ci soddisfa già abbastanza. Queste sono le caratteristiche. Diciamo che l'antipasto, proprio dal punto di vista nostro, nutrizionale, dietetico, è fondamentale in quanto in un certo senso ci dà una grande possibilità, quella ad esempio di anticipare alcune sostanze come le verdure all'inizio del pasto, che abbiamo detto appunto preparano la digestione, preparano a ricevere cibo, rallentando attraverso le loro fibre anche l'assorbimento di quello che andremo a mangiare durante il pasto, e quindi ad esempio iniziare con un buon antipasto ci aiuta a fare questo. Anche nella tradizione nostra italiana l'antipasto fondamentale, e qui spezzerei una lancia a favore dei sottaceti che poi fanno parte della nostra appunto tradizione, perché a dispetto del loro sapore magari un po' amaro, hanno un sacco di proprietà positive, perché prima di tutto alcalinizzano il nostro organismo, quindi sostanzialmente aumentano il pH riducendo l'infiammazione, i dolori articolari e anche il reflusso, facendoci in questo caso preparare e migliorare la nostra digestione e riducendo anche una delle cose che affligge la maggior parte delle persone che poi mangiano liberamente a tavola, cioè il gonfio addominale, quindi hanno veramente questa grande possibilità. Hanno poche calorie, molte vitamine e quindi diciamo che questi sono un ottimo alimento insieme alla verdura per iniziare il nostro pasto. La magia dell'antipasto. Dottor Gualerzi, grazie per essere stato con noi. Lello e Alberto, adesso ho creato una nuova coppia, restano con noi, a tra poco. La bufala in tavola. La salute vien mangiando, oggi la salute vien cantando, un menù musicale vi stiamo proponendo con l'aiuto di Alberto Pellai, Lello degli splendidi chef in camicia, e poi via via ad ogni portata arriveranno i nostri esperti, gli esperti della Bufala in Tavola, che ci dispenseranno come sempre i loro consigli. Allora, arriviamo dopo l'antipasto, arriva il primo piatto. Lello, un primo piatto generoso secondo la tradizione: pasta, riso, pasta ripiena, risotti. Che caratteristiche deve avere questo primo piatto, che devo dire che toglie la più grossa? Assolutamente sì. Secondo me un primo piatto è, a mio gusto, la portata più importante durante il pasto, sia a pranzo che a cena, anche se consigliano gli esperti di dare priorità ai primi piatti durante il pranzo e non a cena, però deve essere perfetto. Il primo piatto deve essere perfetto, sia nella preparazione che nella quantità. Deve essere non troppo poco, ma neanche troppo esagerato, ma soprattutto deve essere saporito e ben legata la pasta o il riso con la salsa relativa nell'accompagnamento. Io personalmente, se dovessi parlare di un primo piatto, parlo sempre a mio gusto, parlare di un piatto che è nel cuore di tutti gli italiani, penso che sono gli spaghetti pomodoro, basilico, grattata di formaggio sopra, che è un piatto semplice, ma che secondo me ha delle grandi complessità nella preparazione, quindi non bisogna assolutamente sottovalutarlo, ed è un piatto che non ti stufa mai, è un evergreen. È vero, evergreen. A proposito di musica, Alberto, e allora? Ma io direi che la canzone che più corrisponde è quella di Diodato, Fai rumore, una canzone che ha un testo perfetto, si appoggia su una musica che davvero potresti ascoltare sempre in loop, la voce fa dei salti armonici incredibili, è proprio qualcosa che ti rimane dentro, quel sapore di buono incredibile che può avere un piatto semplicissimo ma indimenticabile. Poi un grande tema della vita, cioè imparare, mentre costruiamo silenzi e barriere e quindi spesso ci facciamo male nel non detto, a fare rumore, imparare a dire quello che è difficile da raccontare magari alla persona con cui non riesci più a parlare, ma che nel momento in cui l'hai detto fa svoltare. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto è un fuga torno sempre. Allora, il nostro primo piatto, il piatto che abbiniamo alla canzone di Diodato, resta il piatto più amato degli italiani: spaghetti, pomodoro e basilico. Esattamente, esattamente, un piatto che non stuferà mai, secondo me. E io, sai cosa faccio? Lo offro al professor Piretta, eccolo lì, gastroenterologo, docente di allergia e intolleranza alimentare al Campus Biomedico di Roma. Buongiorno, professore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Eccola qua, io l'accolgo con un piatto di spaghetti fumanti, e poi Sanremo, Festival della Canzone Italiana, un piatto tricolore, aggiungiamo anche la foglia di basilico, un filo d'olio extravergine d'oliva, quello che io chiamo sempre il farmalimento, che il mondo ci invidia. Professore, Lello, in realtà è un nome d'arte, si chiama Luca Palombo, è uno dei tre chef in camicia, secondo me la sente la Bufala in Tavola, perché ha detto: molti nutrizionisti suggeriscono la pasta a pranzo e non alla sera. Noi pasta, riso, quando li mangiamo? Allora, i nutrizionisti... Mi faccia fare bella figura, con Lello. Nicoletta, le faccio fare una bellissima figura. Allora, i nutrizionisti consigliano la pasta a pranzo perché di solito hanno a che fare con le persone che sono a dieta e devono dimagrire. ma le persone che non hanno bisogno di fare una dieta dimagrante possono tranquillamente mangiarsi la pasta a cena, anzi, soprattutto quelli che soffrono di insonnia, perché la pasta contiene il triptofano, che è un precursore della serotonina, e questo sappiamo essere un conciliatore del sonno, comunque è un neuroormone che facilita il benessere e concilia il sonno. Quindi non è vero che non si può mangiare il primo piatto a cena. Professore, pasta, noi abbiamo scelto gli spaghetti. Pasto riso, che differenze ci sono? Ne avevamo già parlato in una puntata proprio con lei, ricordo. Ma per fare poi alla fine alla fine o come il basilico. Allora, in questo caso sì, il basilico. E poi integrale, sempre integrale oppure pasta bianca, riso bianco? Mi faccia una piccola schedina. Allora, intanto ci sono alcune piccole differenze, però l'importante secondo me è farlo un primo piatto, che sia di pasto, che sia di riso, perché la componente dominante di questi due primi piatti sono i carboidrati, e i carboidrati sono la benzina del nostro organismo, quindi è necessario che noi li assumiamo in qualche momento della giornata. La differenza è che la pasta ha un pochino più di proteine rispetto al riso. Proprio se vogliamo spezzare il capello in quattro. Esatto, ecco. Per i celiaci c'è il vantaggio che il riso non contiene glutine e di conseguenza può essere un primo piatto sostitutivo importante. Sull'integrale e non integrale, ecco, qui bisogna essere un pochino più invece categorici. Una delle raccomandazioni più importanti che sta venendo dagli ultimi studi scientifici è proprio quello di privilegiare sempre gli alimenti integrali, proprio perché sono una delle principali cause come carenza di patologie cardiovascolari, diabete mellito, eccetera. Quindi favorire il consumo dei cereali integrali aiuta. È doveroso. Attenzione alle persone che soffrono di colon irritabile, perché invece loro questo l'integrale può creare dei problemi di gonfiore addominale. Quindi sempre poi bisogna dal generico passare al particolare, e l'individuo va considerato a sé stante. Allora, i nostri spaghetti hanno un profumato e colorato sugo di pomodoro, tra l'altro pomodoro cotto, licopene, professore. Brava. Brava. Ce l'ho fatta, vede, dai, cotto e dai alla fine. Perché il licopene si assorbe meglio ed è più biodisponibile con la cottura. Quindi ecco, la un antiossidante, aiuta. Possiamo dire così? Sì, sì, è un antiossidante, abbassa il colesterolo e riduce l'ossidazione delle placche di colesterolo, quindi ha un doppio vantaggio della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Lei lo vedi che hai scelto un piatto che ci mantiene, oltre ad appagare il gusto, ci mantiene anche sani e secondo me ci fa vivere anche di più, a lungo e felici. Meno male, meno male. Allora, però, a proposito di sugo, generoso, condimento generoso, ma adesso anche quando facciamo un sugo di pesce, di carne, pensiamo anche alle paste farcite, pensiamo alla lasagna. Abbondo o mi tengo un po' indietro? Ma personalmente io cerco sempre di mettere, non bisogna mai esagerare nelle cose, però se devo scegliere un buon primo piatto cerco di dare priorità sicuramente a una generosa dose di sugo, assolutamente. Dice bene, professor Piretta, il nostro Lello? Dipende cosa c'è nel sugo, perché ora se parliamo del pomodoro e basilico e lasciamo invariato l'olio può anche abbondare. Sulle lasagne la problematica è che poi diventano un po' monopiatto. Assolutamente sì. Mentre quando ci sono sughi di carne o sughi di pesce, il piatto, come fare a bilanciare il piatto e quindi a sposare le proteine con i carboidrati? Perché questo è un luogo comune che non ha ragione scientifica, cioè non è che non si possono mischiare proteine e carboidrati. La stessa pasta, come dicevamo prima, ha un 10-12% di proteine, quindi non è che non si possono mangiare le proteine insieme ai carboidrati. Quello che manca in un piatto di pasta con carne o pesce sono le verdure, quindi quello che non può mancare in un pranzo che preveda la pasta con un contorno di pesce o di carne è il contorno. E noi lo abbiamo già un po' stuzzicato in apertura, perché l'antipasto ci siamo affidati ai consigli del dottor Gualerzi, che ci ha detto proprio aggiungete le verdure. Un buon stratagemma, quello di mangiare le verdure nell'antipasto per aumentare il consumo di verdure, quindi vitamine, sali minerali, fibra. Professor Piretta, grazie per essere stato con noi. Grazie. Le auguro una buonissima domenica. Grazie, buona domenica. Alberto, noi ci prepariamo per il secondo, è una portata impegnativa, ricca. Eh sì, credo a volte è proprio si chiama la portata principale, il piatto più importante. Molti ordinano solo quello, lo fanno diventare un piatto unico, e quindi io ho pensato a una canzone che se ascolti quella ti dici, ecco, questa è, allora, probabilmente... Allora Alberto, dato che dobbiamo dare la linea, tu di che cosa hai pensato di quella canzone, ma... Non dire il titolo di quella canzone, perché la ascolteremo proprio subito dopo la pausa e cercheremo di capire se Lello è d'accordo e come trasformarla in piatto. A che cosa ti sei ispirato? Arriva direttamente, è come vedere un piatto pieno di ogni ingrediente che tu puoi immaginare dentro un secondo piatto, armonizzato perfettamente con qualcuno che te lo serve e sa fare davvero bene il suo mestiere. C'è tutto in quella canzone. C'è tutto, c'è anche la persona che te lo serve col sorriso e ti dice l'ho fatto per te. A tra poco. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. La bufala in tavola. Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore cieco siamo noi di sbieco. Un battibecco nato su un letto. Un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up con un po' di down. Silenzio rotto per un grande sound. Semplici eppure complessi. Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti. Anime purissime e sporchissimi difetti. Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni. Solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E detto questo, che cosa ci resta? Lo adoro, questo è il secondo piatto del nostro menù musicale. Lo stiamo componendo insieme ad Alberto Pellai e a Luca Palombo in arte Lello degli Chef in Camicia. Alberto, hai scelto Francesco Gabbani, tra l'altro io lo adoro. Guarda, l'ho trovato proprio una canzone. Non è che l'hai fatto un po' per me? Ma di la non verità. Lo sapevo, ma io devo dire che come te, quando l'ho ascoltata questa canzone, ho detto eccoci, questo è proprio il piatto di portata perfetta, è perfettamente nella tradizione, eppure ha dentro anche tantissima innovazione, ha saputo reinventarsi dopo essere proprio nato e cresciuto a Sanremo e poi ha preso un concetto ultra complesso e lo ha reso semplicissimo, ci dice che l'amore, se lo vuoi definire, tu mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E credo proprio che abbia a che fare col secondo piatto, perché i secondi piatti possono essere il top del top dell'elaborazione e di quello che il cuoco lo chef ci mette dentro e crea, ma alla fine tu ti accorgi che a volte ci colpiscono perché sono semplici e essenziali, e poi questa è anche una canzone col contorno dentro, perché c'è un fischiettato. Hai visto, che non mamma ti aspetti, mia. Ed è perfetto. È vero, e poi il secondo piatto con le proteine ci dà la forza, l'energia, i nostri muscoli. Ma Lello ha scelto bene, secondo te, Alberto? Adesso io vi stupirò, ragazzi, perché è un momento molto importante del pasto, anche il secondo. Soprattutto oggi stiamo parlando di un menù che parte dall'antipasto e arriva fino al dolce. Quindi alle spalle abbiamo già due portate. Quindi questo secondo sicuramente deve essere ancora più appetitoso del primo e deve ingolosirsi al massimo, perché la sazietà avanza piano piano, visto che abbiamo già assaggiato ben due piatti. Detto questo, io ho pensato che un polpo arrosto con una crema di zucca sarebbe perfetto. E in più, visto che vogliamo parlare di una complessità un pochino semplice, comunque anche del wasabi, che è un pochino diciamo internazionale, potrebbe dare un twist in più a questo piatto. Quindi è un semplice unire ingredienti che possono farlo sembrare complesso questo piatto, ma in realtà è molto semplice come realizzazione. Bello, Alberto ha detto c'è già anche il contorno del fischiettino, e tu, secondo me anche il wasabi può stare, no? Come certo, anche, il fischietto. Anche la crema di zucca. Fantastico. Allora, adesso sentiamo il parere del nostro esperto. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Gabriele Piuri, medico ed esperto in nutrizione. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica a tutti. A lei tocca un piatto squisitissimo, non si dice, ma ti viene proprio l'acquolina in bocca a sentire la descrizione che ne ha fatto Lello, e quindi abbiamo del polpo. Bisogna poi che tu mi spieghi, Lello, come non renderlo duretto, perché un po' il gioco è quello. Assolutamente, se volete ve lo dico subito. Dai, anche. Dicelo subito, che così intanto il dottor Piuri si fa venire anche lui l'acquolina in bocca. Il trucco, e qua lo diciamo a tutti quanti una volta per tutte, per non far venire un polpo gommoso è cuocerlo per, a seconda della dimensione, tra i 40 e i 60 minuti, ok, in acqua bollente. Una volta arrivato a cottura si spegne il fuoco e si lascia il polpo all'interno della sua acqua di cottura, finché non diventa tiepida. A quel punto il polpo sarà sempre morbidissimo. Fantastico, vedi, semplice, semplice ma fondamentale. Lo lasciamo a riposare. Ecco, noi invece mettiamo subito al lavoro il dottor Piuri, perché il secondo è una portata che ha delle caratteristiche particolari anche dal punto di vista nutrizionale, ci fornisce le proteine. Sì, il secondo è particolarmente importante perché permette di fornire nel pasto la parte proteica, e ormai dal punto di vista di nutrizione generale si è molto concordi nel dire che in ogni pasto ci sia bisogno di una componente di carboidrati, una componente di proteine e sicuramente una componente di frutta e verdura. La parte legata al contorno, certo. La parte legata alle proteine è fondamentale per assumere gli amminoacidi, anche se poi ci sono che sono i mattoncini che fanno i muscoli, sono 20 mattoncini diversi. L'aspetto importante in realtà che c'è da capire è che ci sono fonti proteiche come ad esempio il polpo, ma in generale la parte legata al pesce, la carne, le uova, i formaggi, che hanno un alto valore biologico, nel senso che ci permettono di assimilare tutte quante gli amminoacidi che ci servono, e in particolare gli amminoacidi essenziali. Gli amminoacidi, questi mattoncini, si dividono in due grandi classi: quelli che siamo in grado di produrre e che quindi non dobbiamo per forza mangiare dall'esterno, e quelli che invece sono definiti essenziali, che noi non siamo in grado di produrre col nostro metabolismo all'interno delle nostre cellule e che quindi dobbiamo per forza assumere dall'esterno con l'alimentazione. Ed è come se fossero delle vitamine a tutti gli effetti. La parte legata alla carne, il pesce, le uova ancora più della carne e del pesce, i formaggi, portano in realtà un alto valore biologico perché ci permettono di integrare tutti gli amminoacidi essenziali e tutti gli amminoacidi nelle giuste proporzioni. A questo aggiungiamo, ed è sicuramente un altro aspetto importante, la soia, nel senso che per una scelta vegetariana, per una scelta vegana, anche la soia tende ad avere un ottimo valore biologico, mentre altri tipi di proteine, come ad esempio la parte legata ai legumi, tende ad avere una qualità delle proteine un po' più bassa. E quindi tendenzialmente, come insegna la tradizione, si abbinano con pasta, riso, cereali. Proteine quante volte al giorno? Meglio a pranzo, meglio a cena o addirittura a colazione? Meglio in tutti e tre i pasti. nel senso che il fatto di prendere, di avere un pochino di proteine in tutti quanti i pasti è un modo per dire al nostro organismo di andare a utilizzarle per fare muscolo e per attivare il metabolismo e per essere più forti. Quindi non bisogna mangiare grandissime porzioni di proteine, ma averle in tutti quanti tra i pasti, che potrebbe essere la parte legata allo yogurt o alle uova o a prima colazione, potrebbe essere la parte legata a un secondo polpo che stiamo dicendo adesso, ma potrebbe andare benissimo anche la parte legata alla carne, potrebbe essere invece la parte legata al pesce che è un po' più leggero, le uova, potrebbe essere la parte legata ancora al formaggio, invece verso sera per cercare di stare un po' più leggeri. Però le proteine devono essere presenti in tutti quanti. Guardi, lei è stato bravo e poi le daremo la ricetta. Mi sto allargando. Le daremo la ricetta del polpo, proprio la ricetta original degli chef in camicia. Grazie al dottor Piuri, così ci dice se è bravo anche in cucina. Volentieri. Alberto, andiamo verso il dolce? Sempre più difficile? Sai che quella è la mia portata preferita. Io sono un goloso, quindi ho tenuto da parte proprio. Attenzione però, perché il dolce è in un pranzo così ricco come quello che ci godiamo e apprezziamo alla domenica deve avere delle caratteristiche particolari, immagino, Lello. Insomma, non un dolce che vale, un dolce non vale l'altro. Va sposato con tutte le altre portate. Guarda come sono diventata brava. Non mi cadete sul dolce. Mai, assolutamente. Un dolce deve essere come l'antipasto. Come abbiamo aperto il pasto, lo dobbiamo chiudere in maniera importante, perché poi è l'ultimo sapore che rimarrà al palato. Deve essere abbondante e non troppo dolce. Infatti poi quando ci alziamo, andiamo magari a casa a pranzo, a cena da amici, diciamo, ma che cosa hai mangiato questo? Eh? E poi dice, poi un dolce, è proprio l'ultimo sapore che ti resta. Quindi assolutamente, te la devi giocare fino all'ultimo. Alberto, per il dolce, per chiudere il nostro menù musicale, che cosa hai scelto? Guarda, ho scelto qualcosa che per me deve essere anche rinfrescante, oltre che lasciarti dentro un sapore buono, e molto molto creativo. E per me sul palco di Sanremo quest'anno queste caratteristiche erano nella canzone Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari. Una grandissima sorpresa, un grande spettacolo e poi davvero qualcosa che non ti aspetti, ma dopo che l'hai sentito ti lascia dentro una sensazione bellissima. Fantastico, andiamo! A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età e io mi incazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Noi chiudiamo in bellezza con i Pinguini Tattici Nucleari. Ringo Starr è il dolce del nostro menù musicale, suggerito da Alberto Pellai sugli stimoli di Lello, Luca Palombo, degli Chef in Camicia. E per commentare questa portata così particolare, così squisitamente apprezzata da tutti noi, ho in linea la dottoressa Stefania Ruggeri, nutrizionista e autrice di Mamma che fame, abbiamo sempre fame di dolci. Dottoressa Ruggeri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eccomi qui pronta a commentare la parte più delicata. Compito molto difficile, allora sì. Le do due minuti, un minuto di tempo, facciamo una pausa e poi andiamo sul... La bufala in tavola. Eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, bingo. Che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Bingo. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, che forse alla fine c'hai ragione tu. Perché in un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr. È Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, il dolce che chiude il nostro menù musicale. E di dolce parliamo con la dottoressa Stefania Ruggeri, a cui ho dato il tempo di prepararsi per questo commento così delicato. Dottoressa Ruggeri. Allora, direi che naturalmente nel pranzo della domenica non può mancare il dolce, insomma nessun nutrizionista potrebbe negare questo. Allora io direi che potrei suggerire un paio di idee, perché è importante naturalmente includere nel nostro dessert la frutta, senza che però questo debba diventare per forza una macedonia. Insomma, la frutta ci può aiutare naturalmente a digerire, contiene composti antiossidanti e quindi possiamo, diciamo, creare le nostre ricette mettendo nel dolce sempre una quantità di frutta e poi magari alleggerendo e sostituendo degli ingredienti. Adesso vi farò un esempio pratico, come per esempio il mascarpone in un tiramisù, con per esempio dello yogurt, no? Il dolce viene comunque buono, risulta più leggero e praticamente non ci appesantisce a fine pasto. Un'idea molto carina potrebbe essere quella, per esempio, appunto di un tiramisù rivisitato con yogurt, anche savoiardi, perché insomma i savoiardi non hanno tantissime calorie, in realtà un savoiardo ne ha 31, quindi se ne facciamo delle coppette, ne mettiamo tre, facciamo una crema di yogurt e di frutti di bosco, lo mettiamo nel frigorifero, secondo me questo può essere un ottimo dolce a fine pasto. Quindi uniamo insomma un po' di dolcezza del biscotto, certo, però arricchiamo il nostro piatto con della frutta, naturalmente, che ha tutte le potenzialità che noi conosciamo. Dottoressa Ruggeri, io ho citato il titolo del suo ultimo libro, Mamma che fame, ma perché noi abbiamo così sempre fame di dolci? Beh, diciamo non che... solo alla domenica. Allora... E come soddisfare questa voglia? Mi piacerebbe allora... saperlo. Allora, abbiamo sempre fame di dolci in realtà perché... già diciamo nei tempi dell'inizio dei tempi l'uomo si è abituato a riconoscere le piante che avevano un sapore dolciastro come piante nutrienti, ecco. Invece tutte le piante che noi conosciamo, diciamo quelle amare, in realtà erano per l'uomo velenose, quindi diciamo è qualcosa che abbiamo all'interno del nostro proprio DNA. Come potrei dire. E oltretutto è stato fatto uno studio, permettimi di dirtelo, di bambini nella pancia, nel grembo materno, che fanno capriole e sono felici nel momento in cui la mamma mangia un dolce. Ma dai, ma è bellissimo! E quando la mamma mangia qualcosa d'amaro. Quindi diciamo che non possiamo prescindere dal nostro desiderio di dolce. Vedi che non nascono, deve diventare un addiction. Nascono che dicono già la loro, ancora prima esatto. di parlare, appena ti guardano, esatto. nascono eccetera. Sono molto felici del tiramisù allo yogurt. Allora, tiramisù allo yogurt, ma Lello, ma attenzione perché la dottoressa Ruggeri vi ruba un po' il mestiere. Ah no, è sicuramente senza dubbio un'ottima soluzione, un'ottima idea anche quella appunto di unire della frutta, ma non renderla protagonista, perché la frutta seppur buona e sana comunque in un dolce è buona, ma ci sono tante sostanze all'interno di un dessert che possono essere predilette, no? da golosi come noi. Io ad esempio avevo pensato che è un ottimo dolce in cui si può mettere anche un ingrediente che fa bene, poi magari la dottoressa me lo confermerà, potrebbe essere una crema catalana, che a me piace molto la cucina spagnola, con un'aromaticità data da dello zenzero, che secondo me ci sta molto bene. Fantastico, dottoressa Ruggeri, lo zenzero va molto. E poi in questa stagione ci aiuta anche a proteggerci dall'influenza, e quindi è perfetto per questa stagione invernale. Grazie dottoressa Ruggeri per essere stata con noi. Buona giornata. Buona giornata. E buona domenica. Torni presto a trovarci. Ma adesso arriva l'ospite più importante, importantissimo, un ospite che io adoro, che adorate anche voi, Marta Cagnola, basta la parola, ciao Marta. Che bella, abbiamo fatto la rima, era un po' lassativa quella rima. Eccola. Ma benissimo, tutta salute. Ha seguito per noi tutto il Festival di Sanremo. Io per Marta sono un po' la zia Nico, e come tutte le zie, sono la zia Nico. E cosa fanno le zie quando i loro nipotini o nipoti più grandi sono stanchi, arrivano dopo un lavoro impegnativo e faticoso? Preparano un bel menù. E allora Marta, senti che menù abbiamo preparato per te. Parlo al plurale perché abbiamo chiesto la collaborazione di Alberto Pellai, che tu adori, ma anche di Luca Palombo, Lello, sai, Lello degli Chef in Camicia, ce l'abbiamo in linea con noi. Allora, la nuova coppia Alberto Pellai e Luca Palombo ti raccontano il menù musicale della Bufala in Tavola. Alberto, parti con la canzone e Lello traduce la canzone in piatto. Marta, allora intanto ti saluto, poi io come che bello, antipasto, che bello sentirvi. Io come antipasto ho scelto la canzone di Tosca. E Lello ha abbinato alla canzone di Tosca un piatto su cui io sono assolutamente d'accordo, perché mi viene benissimo, Lello. Crostino. Semplice ma incredibile. Crostino burro acciughe. Semplice ma non ti delude mai. Fantastico. Il primo piatto invece proposto da Alberto, e quindi nel nostro menù musicale, la canzone che fa da primo piatto è Fai rumore di Diodato, mentre Lello: spaghetti, pomodoro e basilico. Semplicità. Semplicità e gusto, e poi il colore che ci vuole. Festival della canzone italiana, bianco, rosso e verde. Alberto, andiamo al secondo. Piatto di portata principale, quindi Francesco Gabbani, viceversa. E Lello ha suggerito, eccolo qua: polpo arrosto con crema di zucca e wasabi. Mentre per il dolce andiamo coi pinguini, vero Alberto? Pinguini tattici, certo, nucleari, Ringo Starr, questo lo dico, mi piace, perché pinguini tattici nucleari mi piace un sacco. Come dolce? Catalana crema, con zenzero. Crema catalana con lo zenzero, esatto. Allora, Marta, a te l'ultima parola. Allora, questo menù mi piace molto, direi che è molto equilibrato, con un sacco di sapori musicali diversi, tutta musica che fa bene. Io aggiungerei solo, visto che magari poi vogliamo anche un po' divertirci, un po' ballare, fare un caffè a massa caffè, non so, come Elettra Lamborghini o con quello che vi piace, per fare anche un po' di movimento fisico, così diciamo che no, tutta la salute ne guadagna. Poi comunque devo dire la verità, la musica, quando si sono spente le polemiche, quando si sono spente le parole, quando ormai ci rimangono solo le canzoni da ascoltare, da legare ai nostri ricordi, fa bene alla salute, come la Nico, come la zia Nico. Amore. Allora, grazie a Marta per essere stata con noi, grazie ad Alberto Pellai, a Luca Palombo, il nostro chef in camicia. Io, grazie, mi metterò subito ai fornelli. E mi raccomando, ma tu, se abbiamo bisogno, ci mandi qualche ricettina col trucchetto? Io quando volete vengo a trovarvi anche, no, con grande piacere. No, allora così invito anche Marta e Alberto e facciamo foto. Grazie a tutti, allora. Noi ci sentiamo domani, sempre per risvegliarci insieme alle 6:15 per Obiettivo Salute e Risveglio. Buonissima domenica. Grazie, un abbraccio a tutti dalla vostra salutare ossessione quotidiana.